struttura amovibile, diciamo progettino si fa sempre, chiamiamolo volgarmente progetto, però è molto molto più semplificato rispetto a una concessione edilizia dove c'è la bucalossi, gli oneri di urbanizzazione, un sacco di roba. In questo caso non paghi nessun canone né niente, devi solo la marca da bollo e ti danno un'autorizzazione che è temporanea, non è definitiva. Avanti di nuovo a te Antonio e poi Gianfranco e poi Eugenio. Kappa. Ah, Gianfranco c'era, scusa. Sì, Anto, niente, io tra poco annuncio già il mio querelti perché non mi ricordo che abbiamo già fatto tra una cosa e l'altra le 8, no? Quindi è venuto il momento di andare a cena. Quindi vi saluto tutti, buon proseguimento e alle prossime. Una cosa volevo dire a Roberto, se quando parla Eugenio senti una specie di segnale quasi telefonico, un titi, sicuramente di norma quelli sono sotto nella 26 e sono quella specie di cerca persona tedeschi dalla Germania. Tu lo senti quando parla Eugenio? No, prova a parlare, non ci ho fatto caso Eugenio, prova. Era poco fa che mi diceva problemi, cioè no, non che mi diceva problemi, che mi ascolta nello strano, non lo so, mi porterò dietro qualcosa, non so. Negativo, qua non c'è nulla. C'è stato un messaggio bip, buco. Sì, no, quello forse il suo bip, no, era poco fa e adesso non l'ho sentito, probabilmente propagazione che a volte arrivano talmente forti qua che si sentono questi segnali di ricerca persone e così via. Va bene ragazzi, buon proseguimento, saluti a tutti, riprendi Antonio, ciao. Capo, saluto Gianfra, sentiamo, no, quello là era il suo cellulare, era, non mi trova nulla. Allora, lo sento bene io qua, no, non ne ho problemi. Forse perché mi arriva più alto il segnale, io non so quanto arriva a te. Ok. Ah, te lo bene. Io ciao Gianfranco, tra qualche minuto vado a mangiare, dai. No, grazie a Dio già l'ascolto bene di coso. Non c'è problema. Gianfranco, hai sentito? Buon tutto, ci avrò modo di sentirci, dai. Di nuovo Eugenio per il saluto. Ciao Gianfranco, ci sentiamo, vai. Ciao, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Ciao. E beh, oggi esci tu sei in campo? Domani. E dove vai? Vado vicino perché poi da lì passo al lavoro. Qui da lì va dicendo. Ieri sono andato dopo tanto, ero da qualche mese che non lo utilizzavo perché ho messo il cambio nuovo, mi ho fatto mettere un cambio diverso e il mio è vecchio, già lo sai, il camper vecchio, anche se in buonissime condizioni. Sono salito su a Valliciola a fare un giro per vedere come tirava, come si è comportato. Posso dire che sono più che soddisfatto, è andata bene, tutto il giornata ho fatto, partito la mattina non troppo tardi, non troppo presto e tornato la sera, tranquillo, si stava abbastanza bene, anzi devo dire ero preoccupato ci fosse il vento, invece c'era un bel caldo. Ma quindi ce l'hai il camper, l'hai finito? Io sono rimasto col furgone bianco che faccio in officina. Quello è il secondo, io ho il classico camper, l'autocaravan, detto in parole scientifiche, dai, termine giusto, e poi quello là è un furgonato, è finito, manca qualche fesseria, ma è già finito da tanto. Io oggi ho messo le gomme nuove, ho messo anche le gomme, devo provarlo su strada, quello lì, e poi ho due fesserie all'impianto elettrico, ho fatto tutto il tappeto, te lo faccio vedere, quando è finito mi tornerai, è un bel lavoro, è uscito. Ok, avanti a te di nuovo Antonio. Mi avete chiamato? Cos'hai detto? Se mi avete chiamato. Perché hai messo tanto il cambio nuovo? Rotto c'era quello là. Allora io avevo il cambio 4 marce con l'overdrive, sono infatti i cambi tipo le ridotte, dai, cioè due marce in più ti dà, perché c'è una doppia terza e una doppia quarta. E ho messo il cambio a 5 marce, più comodo, visto che rende meglio la macchina, di velocità non so se cammini di più, questo non lo so perché non l'ho tirato, però come uso in salita vedo che è più gestibile, il mezzo più silenzioso e tutto. Non andava bene quello lì, era un po' così. Che camper è? Roberto? Scusa, mi ero notato un attimo, dimmi. Che camper è? Il mio è un Camperella, ma è vecchio, dell'87, ma è nuovo fiammante, se tu lo vedi, forse Eugenio, non so se l'ha visto, è nuovissimo, il motore è nuovo, gli interni sono in buonissime condizioni, però è un 2005 aspirato, motore che è indistruttibile, non ti chiede niente, anche se l'anno scorso mi ha lasciato a piedi perché si è spaccata la frizione ad Orgaglio, ho dovuto ritornare col carro attrezzi, mi è uscito un conto, mamma mia, mi ha rovinato le ferie pure. Ma tu sei un professionista, tu paghi i camper americani tipo Pullman, cazzo. Ma che motore è? Motore vecchio, che motore ha? Fiat? No, il mio è motore Ford, 2005 aspirato, ma motore lento, però facendo le corna, le sto facendo adesso, è indistruttibile, sono motori che fanno un milione di chilometri quelli, poi è tutto rifatto a nuovo, pompa dei freni, pompa dell'acqua, distribuzione, radiatore, tutto quanto, le ho fatto tutto nuovo io quel motore, eccetera eccetera, adesso le ho fatto col discorso del cambio e basta, e avanti di nuovo Antu. Cappa, i codici non vanno bene, Fiat, quelli turbo, col motore turbo. Sì, no, ma i motori a quei livelli sono tutti buoni, Ducato, vanno più che bene. Adesso l'altro che ho, che è quasi finito, è un 2008 Ducato, meccanica Ducato, aspirato, lo stesso motore eterno. Girano un po', non è come le vetture che sono più leggere, le macchine, per cui il motore ha più prestazioni, eccetera, sale più di giri, qua li limitano, perché sono motori per uso gravoso, molte volte usano per fare gruppo elettrogeni, marinizzati, perché li usano i motori sulle barche, eccetera eccetera. Questo del Transit e quello del Ducato l'hanno usato in qualunque genere di roba, anche trattori eccetera, sono tutti derivati da quelli. Vai oggi di nuovo. Sì, a me che sono andato, che ho ricevuto. Aspetta, lo vuoi? Corarese, ok, bello, bellissimo, complimenti, vabbè, qua stiamo parlando di come pagare una sicurezza, una Ferrari, tu vai una Ferrari sotto, però tutto dipende dall'uso, là c'è anche la motorizzata sul tetto, ok, che sto guardando. Sì, ah, il coso, il condizionatore. No, la parabola motorizzata c'è. Ah, sì, ho la parabola motorizzata. E più c'è il climatizzatore nella cellula. Sì. Ah, c'è il gruppo elettrogeno. È un gruppo elettrogeno incorporato a gas. Non avevo mai sentito, cosa mi fa faccio i soldi, non avevo mai sentito, è a gas. È allucinante, bello, ma qua stiamo parlando, non dico il prezzo, già lo so, stiamo parlando di un abbattamento, si compra un appartamento con quei cosi lì, no, bellissimo, poi sono molto rifiniti, delle cose veramente fatte bene, però il discorso dipende da cosa ne fai, ma c'è il garage, pure la moto magari da Reggio. Sì, un garage grande, grande, no, la moto non ci sta. Quello è omologato per 350 kg, la mia pesa 100 kg in più, non ce la faccio. Ma qua ci vuole la CIP per portare questo aumento? Sì, no, perché è 3,5, però c'è l'estensione a 4,2. Ma quanti chi voleva entrare? Sta uscendo male. L'ho sentito anche io, Bassino, ma chi è? Ma quanti chi voleva entrare? Buonasera, chi sei? Ha detto Antonio, avanti, allora dalle zone tue è Uce. Sceriffo Junior, vai, vabbè dai, ma che già stai uscendo bene, sì, è dalle mie parti. Infatti è quello che c'era l'altro giorno, ma non si chiama Antonio tu? Sei il figlio di Antonio, il fratello del mio collega. Ah, quindi è sceriffo, però è il figlio di Antonio, così? Adesso sceriffo Junior, no? Ah, ho capito, sceriffo Giulio. Ma sì, avete parlato in due. Cosa hai detto? È il figlio, dai, è il figlio di Antonio sceriffo. Aspetta che rilancia Antonio, Antonio lo senti? Sento qualcosa, pio proprio, ma pio. Sceriffo, mi ascolti a me? Qua sei 7, la radio non ti do 5 ma 4, dai, già si capisce quello che dice. A Eugenio gli arriverai a bomba, quanto ti arriva Eugenio? Sì, ma non sto usando l'antenna secondo me, perché a me arriva a 7. Stavo usando la portati, Picca che arriva a 7 a me, Eugenio, a te ti arriva a 7. Sì, a me arriva a 7. E allora, probabilmente o in macchina con qualche antennino. Con cosa stai uscendo, sceriffo? No, ma dove sei? In macchina? Pronto? Stai usando che antenna? Sì, una frusta nera, cioè, allora già purtroppo che si la rivendi, no? A me mi ascolti bene, sceriffo? Dammi un controllo, vuoi dare un controllo di segnale? Quanto arrivo nella scala, nello speaker? 9 con una frusta a portatore, se non è poco allora, cacchio. Va bene allora, dai, vai tu al tuo. Scappa, attenzione sceriffo, copia Antonio. Pio Pio ti sento, Pio Pio, sei proprio Santiago di 2-3, non di più, Io sono a cenare, ciao a tutti, ci sentiamo più tardi, ciao. Ok, oggi anche io vado, magari ci sentiamo dopo, difficile però probabile. Ok, ciao Genio, ben sentito, saluto anche Antonio, purtroppo Antonio arriva sempre tardi quando noi stiamo per chiudere, e saluto anche lo sceriffo di Porto Torres, se mi ascolta, credo di sì, e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio QRT, vado a mangiare che ho anche un po' di fame, ci sentiamo alle prossimine. QRT, ciao ciao, stazione Roberto da Sassari. Ciao, ciao Roberto, ci sentiamo, dai. Alle prossimine, ciao ciao. Ma lui mi sentiva sceriffo a Porto Torres? Sei Pio Pio qua, Pio Pio, Cappa, comunque ti saluto, Antonio da Sassari, Cappa. Ci sentiamo, dai, che devo chiudere un attimino, ci sentiamo dopo. Oh, ci siete ancora? Antonio, Roberto, sceriffo, non c'è più nessuno. Ecco, sono andato in TV, e mi sta toccando qualcosa, perché ogni tanto sparisce. Ma non dipende sicuramente da me. Ho detto che non dipende sicuramente da me. Non hai FM. Andiamo, vai, andiamo. chi è? Attenzione, chi c'è? Pica su cadu, corre, corre, ti cambiare. Chi è che chiama sul 10? Attenzione 10, chi è che chiama?